scesi come lame, è il materasso che è un'onda del mare. Senza dormire non posso stare, troppe cose proibite da dimenticare. Questa notte è un lungo treno che balla, rock and rolla in una testa vuota. E ci sei solo tu, e ci sei solo tu, ci sei solo tu che mi può salvare. Senza dormire non posso stare, mangio in cantina con gli altri, non ci voglio andare. Certi pazzi sono come i cani, che vanno in giro a sentire quegli odori strani. Senza dormire non si può stare, me lo ripete ogni giorno il dottore. Il pazzo buono dorme tutta la notte, quello cattivo si prende le botte. Ci sei solo tu, ci sei solo tu. Senza dormire non posso stare, passa il controllo e me la fanno pagare. Ma prendo il sole, prendo pure la luna, oltre queste sbarre mi vedrai volare. Ci sei solo tu, yeah. Ci sei solo tu, ci sei solo tu, yeah. Ci sei solo tu, tu mi puoi salvare. Solo tu, sei solo tu.